si è verificata questa situazione per cui gli operatori sociali, come tante altre categorie che lavorano nel sociale, si vedono costrette a continuare il proprio lavoro senza la possibilità di tutelare se stessi in primis, ma anche le persone poi per cui si lavora a contatto, perché il nostro è quasi sempre un lavoro di vicinanza, anche fisica, ecco, verso l'altra persona. Viene intimato questo da ASP per quello che riguarda le protezioni internazionali, come da prefettura sui CAS o comunque dagli altri committenti, e d'altra parte però non vengono garantite dagli stessi o comunque dal comune, dallo Stato, non vengono garantite le adeguate protezioni come i guanti, mascherine, e questo viene un po' demandato alle cooperative. Poi ci sono quelle che per fortuna si adoperano, si erano già adoperate per inserirli nell'IVR e soprattutto farli avere fisicamente a portata di necessità, come necessità c'è in questo periodo, ma dall'altra poi invece ci sono, abbiamo saputo, di altre cooperative, altre situazioni in cui addirittura questo obbligo viene demandato agli operatori, questo obbligo di riferimento. Quindi si dice: siete obbligati a usare mascherine e guanti, ma dovete trovarveli, che tra l'altro in questo momento sappiamo tutti che trovare delle mascherine è qualcosa di molto molto arduo. Ed è un po' quello che sta avvenendo, insomma, un po' in tutto il paese e non solo, perché poi in questi giorni mi sto confrontando anche con altre situazioni che stanno iniziando in altri posti al di là dell'Italia, magari con un po' di ritardo, e viene chiesto ai circuiti produttivi degli operai di continuare a qualsiasi costo senza le dovute protezioni, e viene chiesto a chi lavora nel sociale, a chi lavora nel disagio, proprio per cercare di contenere quel disagio, di non far sì che diventi un problema per la società, gli viene chiesto di andare sempre e comunque, mettendo a repentaglio anche la propria vita, fungendo sempre di più un ruolo di controllore, che è quello che è appunto una certa parte committente, a partire dal governo, dalla prefettura, da tempo ci chiede. Come ci ricordiamo il pacchetto Minniti Orlando, già ancora prima, ma sempre di più, ogni occasione buona per far sì che il nostro impegno principale sia sì l'educativa, ma sempre di più soprattutto la funzione di controllo e controllore. Viene chiesto a voi anche di sanzionare gli ospiti che non rispettano magari le disposizioni, o che le rispettano ma escono dalle strutture. Sì, questa del controllo è una cosa che appunto ci portiamo dietro da tempo, e ogni occasione come questa, anche le più gravi, vengono utilizzate per far sì che noi adempiamo quel ruolo che è in completa antitesi con quello che invece è il nostro più educativo. Quindi addirittura la richiesta arrivata è quella di sanzionare le persone togliendo il pocket money, se non addirittura il full money, nelle situazioni in cui non dovessero rispettare. Anche questo viene lasciato all'arbitrarietà, all'interpretazione delle cooperative, perché ci sono situazioni in cui addirittura viene chiesto ai migranti di non uscire assolutamente di casa per nessun motivo, neanche per fare la spesa, quando ci sono due pesi e due misure, perché invece ci sono insomma, per gli altri, per tutti noi, ci sono delle poche, ma ci sono delle situazioni in cui ci è possibile uscire per taluni motivi, ecco. Tornando un attimo alla situazione di operatrici e operatori, i decreti nazionali però dovrebbero anche così favorire lo smart working. Questo non avviene? Questo non avviene, questo avviene solo in piccola parte, e anche qui, come lo ritroviamo per i sistemi di produzione, viene incentivato solo da un punto di vista, diciamo, un pochino più dirigenziale, mentre chi, anche come noi operatori, comunque in gran parte potremmo adoperare queste modalità, questo invece ci è stato chiesto di non farlo. Insomma, alcune cooperative, fortunatamente più virtuose, si erano già mosse in questo senso, e però i committenti hanno chiesto esplicitamente di evitarlo il più possibile e di continuare la presenza nelle strutture, ovviamente senza le adeguate protezioni, appunto in un momento di crisi di mezzi di prevenzione e di esposizione molto alta, perché poi dall'altra parte ci viene detto in ogni modo: non uscite di casa, c'è il pericolo. Quello che noi chiediamo è la possibilità, intanto, di avere le dovute prevenzioni e le dovute riconoscimento anche di quello che è il lavoro usurante, in situazioni nelle più gravi in cui davvero non è possibile sospendere il tipo di educativa. Per il resto chiediamo invece di poter rimanere a casa, tutelare la nostra salute e nello stesso modo la salute delle persone con cui lavoriamo, e la possibilità di accedere al reddito lavoratori in quarantena. Chiedete anche un incontro con le istituzioni e se non venirete ascoltati siete costretti all'agitazione. Sì, assolutamente, l'abbiamo già chiesto, lo stiamo richiedendo a gran voce. Ormai sempre più persone si sentono coinvolte, sempre più lavoratori si sentono coinvolti in questa situazione che sta diventando sempre più ambigua. Sicuramente troveremo anche le nuove forme per appunto creare un'agitazione diverse da quelle delle mobilitazioni di piazza, ma troveremo il modo, ecco, per farci sentire, per provare a farci ascoltare.